ad alta voce. Le Metamorfosi di Ovidio, tradotte e lette da Vittorio Sermonti. Libro ottavo, versi 445-723. Meleagro di Calidone ha abbattuto col giavellotto un enorme cinghiale che terrorizzava l'Etolia. Per amore della bella Atalanta le offre il trofeo. Ma due zii, fratelli di sua madre Altea, contestano l'assegnazione e lui li uccide. Portava doni agli dèi per la vittoria del figlio, Altea, quando vide il trasporto dei suoi fratelli cadaveri. Allora, battendosi il petto, riempie di lugubri grida la città e le vesti listate d'oro le cambia con vesti nere. Ma quando le dicono chi è l'assassino, sospende il lutto e converte le lacrime in bramosia di vendetta. C'era un ceppo che, quando Altea era lì stremata dal parto, le tre vecchie sorelle, filando a pressione di pollice il filo di quel destino incipiente, lo avevano gettato alle fiamme. «Diamo lo stesso tempo di vita», dissero, «a questo ciocco ed a te, neonato». E, pronunciata la formula, le dee se ne andarono e lei, la mamma, estrasse dal fuoco il tizzone ardente e lo spense inzuppandolo d'acqua. Tizzone che, conservato nei recessi di casa per anni, ragazzo mio, in vita ti ha conservato. Ora l'ha estratto tua madre e dispone si monti un mucchio di rami e di legni e a quel mucchio appicca il fuoco dell'odio. Quattro volte tentata di rimettere il ciocco nel fuoco, quattro volte rinuncia. Sorella e madre combattono, tirando in due direzioni opposte un unico cuore. Ora l'orrore del crimine venturo le sbianca la faccia, ora la brucia la collera, imporporandole gli occhi. Alle volte all'aria di chi può commettere una qualsiasi efferatezza, altre volte di chi sente pietà. Se avverte il fuoco dell'ira seccarle le lacrime, piange lo stesso. È come una barca trascinata dal vento in un verso e da una corrente contraria nel verso opposto. Non può scegliere e deve ubbidire alla doppia violenza, così la figlia di Testio oscilla fra passioni incompatibili. Nel dubbio seda la furia e sedatala la rinfocola. Ma poi comincia a sentirsi più sorella che madre e per consolare le ombre del proprio sangue, col sangue si rende empiamente pietosa. E quando il fuoco funesto prende forza, il rogo dice carbonizzi la carne della mia carne e forsennata brandisce il ciocco fatale e aggiunge, infelice, piantata davanti all'altare dei morti, Eumenidi, triplici dee del castigo, ma date un'occhiata a questo rito d'inferno. Per vendicare un'infamia consumo un'infamia. Ah, la morte si espia con la morte, un delitto perfeziona un delitto, un funerale. Una montagna di lutti seppellisca quest'empia casata. E perché dovrebbe godersi vincitore suo figlio Eneo e Testio aver perso i suoi? Meglio che piangano entrambi. Anime dei fratelli, miei fantasmi recenti, rendetevi conto di quanto mi costa questo omaggio e accettate la funebre offerta, questo spregevole frutto della mia pancia. Ma dove vado a parare? Perdonate una madre, fratelli, le mie mani non ce la fanno, lui merita di morire, d'accordo, però mi ripugna essere io che lo faccio. Allora vivo, impunito, vincitore e peggio, borioso della vittoria e re di Calidone sarà, e voi due sottoterra sarete poca cenere, ombre gelate. No, non lo sopporto, deve morire l'infame, e portandosi dietro nella catastrofe i sogni di un padre, un regno, la patria. Ma la tenerezza materna, che fine ha fatto? Il patto d'amore con un figlio, le pene di 9 mesi di gravidanza. Magari tu fossi bruciato a quel tempo nel focolare e io rassegnata mi fossi. Grazie a tua madre vissuto, ora per colpa tua morirai. Questo è il premio che meriti. Col parto e estraendo il tizzone 2 volte ti ho dato la vita. Ora ridammela o associami alla tomba dei miei fratelli. Voglio e non posso. Che fare? Ora ho davanti agli occhi i fratelli miei crivellati e immagino il doppio assassinio. Ora nome e pietà di madre mi spaccano il cuore. Ahimè, vincerete, fratelli, purtroppo però vincerete. Basta che io possa seguirvi col figlio che immolo alla vostra pace. Dice, e girando la testa, la mano che trema, ributta in mezzo alle fiamme quel suo tizzone fatale. Geme il ciocco, o almeno sembra proprio che gema, e il fuoco che lo avviluppa, riluttando a bruciarlo, lo brucia. Lontano, inconsapevole, acceso di quella medesima fiamma, non si arrende Meleagro agli enormi dolori. Ma vedendosi addosso una morte senza sangue, senza ragione, si rattrista, chiama felici le ferite letali di Anceo e, con un ultimo filo di voce, chiama il vecchissimo padre, chiama i fratelli, le buone sorelle, la moglie e forse chiama la madre. Cresce il fuoco e cresce il tormento, poi languiscono insieme. E mentre va dileguando, poco a poco, nell'aria leggera, lo spirito di Meleagro, un velo di cenere bianca, poco a poco, ricopre le braci. Calidone la Grande è prostrata, piangono giovani e vecchi, popolo e nobili gemono, i capelli si strappan le madri di famiglia in riva alle veno, urlando da disperate. Il padre, steso per terra, si imbratta di polvere il viso liso e i bianchi capelli e impreca alla troppa sua vita. E la madre cosciente del delitto commesso, pretende di punirsi con le sue mani e si caccia un ferro nel ventre. Nemmeno mi avesse un Dio dotato di 100 bocche con 100 lingue e del genio di tutte le muse, potrei render voce all'infinita tristezza delle sorelle. Si martellano senza pudore fino a coprirsi di lividi il seno, finché c'è il cadavere se lo scaldano addosso e lo coprono di baci e coprono di baci il feretro. Poi, incenerito, si premono al petto manciate di cenere, si abbattono, quasi si versano sul tumulo e abbracciano il nome scalpellato nel marmo e lavano il nome di lacrime. Finalmente Diana, sazia d'aver demolito il casato di Eneo, fa spuntare penne dal corpo a tutte, tranne a Gorge e alla nuora della famosissima Alcmena. Sviluppa ali lunghe lungo le braccia, cambia le bocche in boccucce di corno e, alterate così, le spedisce a volare per l'aria. Dopo aver condiviso la prova coi compagni, Teseo, frattanto, rientrava alla rocca di Eretteo, tutelata dalla Tritonide. Gli taglia la strada, però, e lo arresta, gonfio di pioggia, il fiume Acheloo, che gli dice: Ateniese famoso, perché invece di esporti ai miei flutti rapaci non vieni da me? Quelli trascinano tronchi e con enorme fracasso macigni messi di sbieco. Ho visto travolgere fior di stalle vicine alla riva con tutte le bestie e non è servita la forza agli armenti, ai cavalli la velocità, per non dire dei corpi di giovani inghiottiti dalla fiumana turbolenta di quando si sciolgono le nevi della montagna. Più sicuro se stai tranquillo finché non rientri il deflusso nella norma e l'acqua sedata non torni dentro al suo letto. Annuisce il figlio di Egeo, profitto della tua casa e del tuo consiglio, Acheloo risponde, ed è quello che fa. Entra in un atrio scavato, bucherellata e nel tufo grezzo. Il pavimento è scivoloso di muschio, sul soffitto si alternano a intarsio conchiglie di forma diversa. Iperione ha già misurato 2/3 del suo percorso che Teseo e i compagni di viaggio si sdraiano sui divani. Da un lato il figlio di Sione, dall'altro Lelege, eroe di Trezene, già con le tempie brizzolate, e quanti altri il fiume della Carnania, fierissimo di ricevere tanto ospite, considerava degni di analogo onore. E subito ninfe coi piedi nudi dispongono i tavoli coprendoli di vivande, poi sparecchiato servono il vino in caraffe di pietra. A quel punto il grandissimo eroe, guardando dall'alto un mare lontano, «Che posto è quello?» domanda, indicando col dito. «Dimmi il nome dell'isola, per quanto mi sembri che di isole laggiù ce ne siano diverse». Il fiume risponde, «Di fatto tu ne vedi più d'una. 5 sono. La grande distanza ne confonde i profili. Perché troppo non ti stupisca quel che offesa ha fatto Diana, sappi che erano naiadi. E una volta, avendo immolato 10 tori e invitato al rito tutti quanti gli dei dei campi, ballavano a festa, ma s'erano purtroppo scordate di me. Mi gonfio di rabbia, mi gonfio come mai mi era successo. Scatenato in furia di acque, non meno che in furia di cuore, strappo via boschi ai boschi, ai campi strappo via campi, e rotolo in mare il terreno e le ninfe, che alla buon'ora si stan ricordando di me. Le mie onde e quelle del mare staccano un blocco enorme di terra e lo rompono in tanti frammenti, quanti tu adesso ne vedi al largo, le Echinadi. Ma non puoi non vedere lontano, lontano, da sola, un'isola che mi è cara. I marinai la chiamano Perimele. Per amore io le ho rubato il vanto di essere vergine. Suo padre, Ippodamante, non la prese bene e dall'alto d'una roccia la scaraventò nell'abisso perché ci restasse. Raccolsi il suo corpo e reggendolo a galla dicevo: tu che col tuo tridente hai avuto in sorte il secondo regno, il regno delle onde vaganti, dove noi fiumi sacri andiamo tutti a finire, ascolta me che ti prego, Nettuno. A lei ho fatto del male. Se mite e giusto fosse stato suo padre, o almeno scellerato un po' meno, avrebbe avuto pietà di lei e avrebbe me perdonato. Ma se la ferocia paterna le ha precluso la terra, ti prego, aiutami tu, dà uno spazio a questa che per la ferocia paterna annega Nettuno. O fa di lei stessa uno spazio, così potrò sempre abbracciarla. Il re delle acque annuisce con il capo e al suo cenno di assenso tutto il mare si arriccia. Si spaventa la ninfa e continua a nuotare Io le tocco il seno che palpita, il seno che le trasale d'un tremito, e mentre son lì che la palpo, la sento tutta indurire e il cuore nascondersi sotto una massa di terra. Parlavo, e una terra che prima non c'era la fascia nel nuoto. Così quel corpo oppresso si ispessisce, mutandosi in isola. Il fiume qui tace. Tutti sono scossi da quel portento, tutti tranne il figlio di Issione, Piritoo, che dal miscredente presuntuoso che è, irride chiunque ci creda. Conti favole, dice Acheloo, convinto che possano tutto gli dèi conferire perfino e avocare ai corpi la forma. Allibiscono tutti e deplorano questo linguaggio, e l'Elege, il più maturo per senno e per età, dice così: la potenza del cielo è immensa davvero, non ha limiti, ed ogni cosa che vogliano gli dèi si realizza. Provo a fugarti ogni dubbio. Sulle colline di Frigia c'è una quercia vicina a un tiglio con un muretto intorno. L'ho visto con i miei occhi quel posto, la volta che Pitteo mi spedì sui terreni di Pelope, dove un tempo regnava suo padre. Non lontano di lì c'è uno stagno, terreno un tempo abitabile, ora acquitrinio gremito di smerghi lacustri e di folaghe. Ci venne Giove una volta travestito da uomo, e con lui, deposte le alette, l'araldo dei cieli, il nipote di Atlante. Bussarono a 1000 case mendicando dove dormire. Tirarono il catenaccio tutte e 1000, ma una li accolse minuscola, con un tetto di paglia e canne di lago. Bauci, una brava vecchietta, e Filemone vecchio anche lui, vivevano fin da ragazzi in quella capanna. Insieme erano in quella capanna invecchiati con leggerezza, sopportando la povertà senza rabbia e senza vergogna. Inutile in quella capanna cercare servi e padroni. La casa son loro, comandano e ubbidiscono tutti e due. Quando dunque i celesti approdano a questa modesta dimora e non senza chinare la testa varcano la porticina, il vecchio li invita a tirare il fiato accostando una panca su cui Bauci si è presa cura di stendere un povero straccio. Bauci che nel focolare smuove la cenere tiepida e ravviva con foglie e corteccia secca la fiamma di ieri, soffiandoci sopra il suo fiato di vecchia. E da un ripostiglio cava fuori ciocchi fatti a pezzi e rametti essiccati, li sminuzza per bene, sopra ci mette una piccola pentola e sfoglia gli ortaggi raccolti dal marito nell'orto irrigato per bene. Poi con una forca a due punte Filemone stacca una spalla affumicata di porco da un trave nerastro. Dalla spalla tenuta da conto col massimo scrupolo, taglia un piccolo trancio e lo getta a lessare nell'acqua che bolle. Intanto, facendo due chiacchiere, ingannano il tempo che manca alla cena e l'imbarazzo dell'attesa. C'era un catino di faggio appeso ad un gancio per il manico rigido. Lo riempiono d'acqua tiepida per il sollievo dei piedi. Sprimacciano il materasso di morbide erbe fluviali poggiato sopra il lettuccio con sponde e zampette di salice. Lo ricoprono con un coltrone che non tirano fuori se non nei giorni di festa. Peraltro non era che una coperta vecchia e da 4 soldi, adatta a un letto di salice. Gli dèi si mettono comodi. Tremolante e sbracciata, la vecchia apparecchia una tavola con 3 zampe e la terza è più corta. La pareggia con una zeppa di coccio ed, eliminata la pendenza, strofina il piano con un ciuffo verde di menta. mette in tavola olive di due colori, le olive sacre all'intatta Minerva, e corniole autunnali in guazzetto, ravanelli, cicoria, una forma di latte cagliato e uova scottate appena in cenere calda non troppo, tutto in piatti di coccio. Sbalzata in materiale di analogo pregio, arriva una brocca con bicchieri di legno di faggio bucherellati e all'interno stuccati con tanto di cera. Un attimo e portano in tavola dal fuoco pietanze calde e tornan col vino, un vino non propriamente d'annata, ma se non lo scostano un po' non c'è dove metter la frutta. Ecco noci, ecco fichi secchi fra le grinze dei datteri, ecco prugne in grandi canestri, ecco mele profumatissime e grappoli d'uva spiccati da tralci violetti di vite. In mezzo trionfa un favo, ma soprattutto due facce buone ci sono e una buona accoglienza né pigra né gretta. Peraltro gli sposi si accorgono che più di una volta il boccale vuoto torna a riempirsi e il vino ricresce da sé. Sbalorditi e allarmati per quella stranezza, Bauci e Filemone, il timido, mani al cielo, son lì che pregano e chiedono perdono per la modestia della cena e del servizio. A guardia della capanna non c'era che un'oca, ed i due erano pronti a sgozzarla per gli ospiti sacri. L'uccello svelto di penna affatica i padroni attardati dagli anni, li evita a lungo finché non va a rifugiarsi vicino agli stessi dei, e gli dei proibiscono di ammazzarlo. Dei siamo. I vostri vicini sconteranno la loro impietà con il castigo che meritano. Voi soli sarete immuni dalla catastrofe. Dicono, vi basterà lasciare la casa, venirci dietro e salire con noi in cima al monte. Ubbidiscono e preceduti tutti e due dagli dèi, appoggiandosi ai loro bastoni, appesantiti dagli anni, rimontano passo passo il pendio quanto è lungo. Distano dalla vetta non più dello spazio che copre un volo di freccia, che girano gli occhi e vedono tutto sommerso in una palude, salvo la loro casetta. Non credono ai loro occhi, compiangono il prossimo loro e intanto quella bicocca, piccola pure per due, si è trasformata in un tempio, colonne al posto dei pali, la paglia gialla del tetto sprigiona barbagli d'oro, gli stipiti sono intagliati, i pavimenti di marmo. Così si esprime il figlio di Saturno con aria benigna. Buon vecchio, e tu, moglie degna d'un marito talmente buono, ditemi, cosa vorreste? Scambiate quattro parole con Bauci, Filemone espone agli dèi la scelta comune. Essere sacerdoti e custodi del vostro tempio vorremmo, ed avendo passato una vita in perfetta armonia, che la morte ci prenda insieme. Che io non debba vedere mia moglie in cenere, lei che seppellirmi non debba. Desideri avverati, ottennero la custodia del tempio fin tanto che vissero. E un giorno che, stremati dagli anni, erano lì che illustravano davanti ai gradini del tempio la storia del luogo, Bauci vide che il vecchio Filemone metteva foglie. Filemone che Bauci metteva foglie. E quando in testa ad entrambi stava già per crescere un ciuffo, conversavano ancora fra loro, tanto che dissero insieme «Addio, mio amore!» E la scorza così sigillò le due bocche insieme. Chi abita quella regione di Frigia oggi ancora ti mostra i due tronchi vicini, che erano stati due corpi.